Dio, Dio, oggi ne cercava l'uomo, l'uomo, l'uomo folle di Giano cercava Dio, Dio, l'uomo di oggi non cerca neanche Dio, io. Chi parla troppo costruisce labirinti per nascondersi. La dinamica segreto confessione scompare, dove il segreto non è vissuto male, ma non per questo esso deve diffondersi. Se le onde si inchinano, le si cavalca. Ma nella burrasca delle passioni si salta solo chi guarda da lontano, ma nessuno salpia. Un'altra occasione per la natura di godersi la sua solitudine. Questa è la mia tempesta, sono servista, paziente, se addentra, tu forse ne sei più di me, ma di certo non su di me. Se mi esprimessi dessi un nome alla mia passione, l'avrei persa. Confusa con la ressa, illusa che sia la stessa, una premessa. Prima e oltre ogni rito messo resta, sia essa persa dentro alla gangia in marcia o genuflessa. Poi t'ho interrotto, un b-boy corrotto, poi cotto il vendica un'identità autentica, le parole insegnamento, l'insegnamento che lascia dubbi su ogni mia frase. Superata la potenza ambigua delle mie righe che bleffa e surfa su questa base, la trasvalutazione dei valori è stata sottovalutata. Lo stesso problema per cui era stata ideata, nomade contro ogni città che limita la tua diottria. Ti abito a vedere la fine di ogni sua via, chi critica a fondo la teleologia, chi è che si scosta? Chissà, forse una domanda senza aver già la risposta, magari nascosta e poco a fuoco in base alla posta in gioco. Si avvera la previsione di Warhol, chiunque intervistate sfoggia l'abito e l'opinione, mentre io rincorro il silenzio decostruendo la volontà di verità con un rito criticale. Senti l'alito dietro del dio che spranati mi ha lasciato solo nel crinale. Senza una morale, per questo riesco a vivere partendo dal rimpianto conoscitivo di Ionesco. Il brivido dell'assurdo che gli provò solo d'anziano, ma che io ho provato più presto astraendomi dal contesto. Lascio ad Hollywood il compito di prepararvi falsi eroi. La mia penna ha perso autorità da quando sa che scrive anche per voi. E l'inchiostro si rovesce, va perso, immerso nell'inespresso. Anzi, aggiornando Warhol per ore è ancora più triste che lo scarto fra l'uomo e l'idolo è troppo piccolo e continua ad esistere, muffa di Dio! Oggi che l'enigma è ridotto a quiz televisivo che non ti rende mai attivo in modo decisivo, ed è come avere solo foto di ragazzine senza aver mai esplorato un corpo femminile vivo. Tra guru antisocratici, santi mediatici, non è tanto che mi stanno antipatici, ma tanti sguardi facili, distanti e fragili. Ho scritto spesso cose banali, mezze mediocri, fin troppo facile sembrare originali, come fra rapper ai quali basta mettere in rima di aria, rivelandosi in quanto persi nei loro labirinti involontari. Ma una fede non si nasconde, perciò si riconosce per ciò che nasconde, mentre qui la mia ragione che nasconde si nasconde.